popolazioni dal sud globale, dai nostri territori mondiali, che in questo momento sono accomunati da questa emergenza sanitaria, ma che fino a questo momento, e continueranno in molti casi anche dopo, hanno a che fare con problematiche molto cogenti, dalla guerra alla lotta per le risorse, a conflitti ambientali, a piani di ripacificazione o di ripartenza dopo magari dittature molto lunghe. Ecco, tutto questo non si mette in pausa, tutto questo continua a esistere e continuerà a esistere, in alcuni casi anche forse purtroppo si acutizzerà certi fenomeni in contesti magari più poveri. Ecco, questo piccolo terra di tutti, questa piccola finestra che sarà visibile dalle spazi di opengdb.it, quindi la piattaforma che i ragazzi di SMK Video Factory mettono a disposizione da tanto tempo per fare gli streaming di comunità, darà la possibilità di continuare un po' ad avere uno sguardo sul mondo in questo momento un po' offuscato, diciamo, da questa emergenza che ci riguarda. Per chi ci ascolta, ricordiamo anche quali sono le caratteristiche del Terra di Tutti. Sì, noi siamo un festival nato dal basso, diciamo un festival povero, no? Che però piano piano si è strutturato, ha trovato il suo pubblico, la sua dinamica, nato per la volontà di due ONG, Cospe Onlus di Firenze e WeWorld di Milano, che è stato prima GVC di Bologna, insomma WeWorld di Milano, delle Onlus che fanno un lavoro sia in Italia che all'estero di racconto sui diritti umani, di cooperazione internazionale, di sostegno all'emergenza, e che per portare questa voce del lavoro sui territori hanno immaginato già 14 anni fa di costruire un festival qui a Bologna che raccontasse queste storie ma con una visione positiva, utilizzando film, documentari, docufiction, web serie, no? Avremo ad esempio anche il terzo segreto di Satira, che con uno sguardo no, ci porteranno nel mondo del volontariato in Mozambico. Ecco, il tentativo è quello di dare una finestra sul mondo, ma che non parta dalla pietà, dai problemi, da una visione in un qualche modo stereotipata di tutto quello che non va, ma che dia una restituzione un po' caleidoscopica di questo sud del mondo, di questi tanti sud del mondo. Quindi vedere tutto quello che si muove, anche la cinematografia che si muove con molto molto forza e valore anche estetico e narrativo. Terra di Tutti è un po' questo tentativo. Noi stiamo lanciando, nonostante tutto, proprio in questi giorni, l'edizione 2020, dal 6 all'11 ottobre con le 1000 incognite, quindi intanto partiamo, lanciamo la call, proviamo a raccogliere del materiale e poi strada facendo, in base a come evolvono gli eventi, proveremo a capire insomma la fattibilità del festival. Però vogliamo esserci, anche il tentativo di questo mini festival in streaming è provare a capire anche alternative agli eventi live, no? Cosa può succedere insomma anche per il cinema sociale in epoca di pandemie, magari nuove strategie distributive. Allora ricapitoliamo quanti saranno i titoli, i giorni e anche l'indirizzo su cui vedere. Ok, allora venerdì 17 aprile, sabato 18 e domenica 19 aprile, venerdì e sabato dalle 21.15, la domenica dalle 19, sono 9 titoli in streaming gratuitamente dalla piattaforma opendb.it, quindi basta collegarsi e comincerà lo streaming in diretta sostanzialmente di questa programmazione, una programmazione che il venerdì 17 è dedicata ai conflitti, un racconto siriano, il sabato 18 sono sguardi di cinema italiano, cortometraggi sul tema migrazioni, quindi da Pizza Boy a Baradà, che era un po' nella cinquina dei corti dei David di Donatello, insomma alcune produzioni italiane corte che parlano di immigrazione, e invece da domenica, iniziando con Sei chi restan di Ester Sparatore, e andiamo avanti tutta la sera anche a parlare di diritti delle donne e questioni di genere, avremo anche un bellissimo cortometraggio di Francesca Archibugi, insomma sarà una serata quella di domenica molto molto interessante. Quarantine Edition per il Terra di Tutti Film Festival, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Jonathan Ferramola. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, Jonathan. Grazie Federico e un buon ascolto a tutti voi.

collettivo Poniamoci, Milena Fiore e Simone Pallica, i quali li stanno minimamente montando, cioè montano la sigletta, montano chi è, chi sono, e viene mandata a Modena, dove viene processata e quindi messa dentro il sito. Devo dire che poi Arco Iris ha anche una pagina YouTube, quindi insomma, sai, nel giro di 6 giorni circa che abbiamo iniziato a pubblicare, perché è una testimonianza al giorno, beh, insomma, tra Arco Iris e YouTube credo che abbiamo superato le migliaia di visualizzazioni. Quanti sono più o meno i paesi che avete visitato? Proprio stamattina è uscita una testimonianza a Nuova Delhi, quindi dall'India, poi abbiamo avuto l'Australia, poi abbiamo avuto gli Stati Uniti, poi abbiamo avuto Barcellona, Madrid, Svizzera, Parigi, beh, insomma parecchi. Adesso ci stiamo anche attrezzando un po' con l'Africa. Ma abbiamo, come dire, i problemi nostri sono di connessione, perché per l'appunto molti, ad esempio dal Nicaragua non abbiamo ancora niente, ma sono già 3 giorni che provo un collegamento che riesce e non riesce. Insomma, questi sono i problemi più grossi che ci abbiamo, per esempio per andare verso altri luoghi magari più remoti del pianeta, diciamo più remoti, ma solo nel senso meno attrezzati con le linee digitali, insomma, tutto qua. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, il riferimento è www.arcoiris.tv, che è un sito nel quale sulla home page affissi 2 link, uno il link di Opponiamoci, dove abbiamo prodotto già una serie di cose, e l'altro sempre un link di Opponiamoci, ma con testimonianze dal mondo Covid-19. Opponiamoci, testimonianze dal mondo Covid-19, un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso D'Elia. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao a tutti, grazie. Con Enzo Bevar per parlare della rassegna promossa da Cinemovel, Libera e My Movies, Io resto a casa con Schermi in classe, con la visione di film e confronto con i registi. Enzo, ben trovato. Ciao Federico, grazie. Parlacene tu. Schermi in classe è un progetto che come Cinemovel realizziamo da 10 anni, portando il cinema direttamente nelle scuole italiane, allestendo quindi una vera e propria sala cinematografica nelle palestre, nelle aule magne, in quegli spazi che le scuole ci mettono a disposizione per consentire ai ragazzi di tornare a vedere un film sul grande schermo. Da qualche anno il progetto appunto realizzato anche assieme a Libera ha raggiunto una dimensione nazionale, andiamo veramente in tutta Italia a fare questa attività, e quindi in questo periodo particolare in cui siamo tutti costretti a rimanere chiusi in casa, assieme agli amici di My Movies abbiamo pensato di immaginare una proposta, una piccola rassegna di 4 titoli che consenta comunque agli insegnanti e ai ragazzi di vedere un bel film, magari anche con la famiglia. L'orario di ogni proiezione è le 4 del pomeriggio, proprio per eventualmente allargare l'iniziativa anche a chiunque voglia mettersi davanti allo schermo. Abbiamo avuto una bellissima disponibilità da parte dei distributori, ma soprattutto da parte dei registi. Tutti e 4 i registi dei film che proietteremo si collegheranno in video con noi per incontrare virtualmente i ragazzi e in generale il pubblico alla fine della proiezione. Quanti saranno gli studenti e le studentesse coinvolti? Ci aspettiamo davvero una bella partecipazione dagli riscontri che abbiamo in questi giorni. Ci sono sulla sala virtuale di My Movies un massimo di 3.000 posti disponibili e sono già stati prenotati più di 1.500 posti per ogni singola proiezione. Inizieremo giovedì 16 aprile alle 16 con La guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo Conte, e lì secondo me inizieremo appunto a capire di che cosa stiamo parlando. Presentiamo tutti i titoli? Certo, come ti dicevo iniziamo il 16 aprile con La guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo Conte, continuiamo martedì 21 sempre alle 16 del pomeriggio con La zuppa del demonio di Davide Ferrario, giovedì 23 alle 16 con La mia classe di Daniele Vicaglianone, e chiudiamo martedì 28 sempre alle 16 con La nave dolce di Daniele Vicari. Sono tutti film che abbiamo inserito anche all'interno della carovana di Libero Cinema e Libera Terra, che ogni anno durante l'estate attraversa l'Italia per portare il cinema sui beni confiscati alle mafie, e in generale con questi registi abbiamo condiviso già un pezzo di strada, un pezzo di itinerario, avendoci raggiunto in tanti posti del paese. Siamo contenti adesso di poterlo fare anche online, per provare nel nostro piccolo appunto a dare un contributo in questo momento un po' particolare. La scelta dei titoli era già stata ragionata o si è basata soprattutto sulla disponibilità degli autori? Diciamo che questi sono quattro film che abbiamo inserito anche lo scorso anno all'interno delle proiezioni di Schermi in Classe, quindi sono state 15 scuole italiane che hanno avuto l'opportunità di vedere tanti film. Questi sono sicuramente dei film che hanno funzionato meglio nei confronti di un pubblico dei ragazzi. In modi diversi, La guerra dei Cafoni è un bellissimo film senza tempo, ambientato in una Puglia fuori dal tempo e dallo spazio, che riprende un po' il filo di una lotta di classe, di una nascita della criminalità in un tessuto sociale particolare. La zuppa del demonio è un documentario che alla partenza potrebbe essere difficile per dei ragazzi, perché usa solo materiali di repertorio, e anche la voce over, la voce narrante, restituisce il pensiero degli intellettuali italiani sul Novecento. Siamo rimasti noi per primi stupiti invece dalla reazione dei ragazzi, degli studenti, che è stata travolgente, veramente molto molto forte. Gli ultimi due film di Gaglianone e di Vicari, La mia classe e L'andame dolce, sono entrambi dei documentari che abbiamo proiettato in tantissime occasioni diverse, abbiamo sempre visto che hanno un bellissimo riscontro da parte del pubblico, e quindi sono un po' anche loro due titoli di bandiera per Cinemuovere, cioè sono due titoli a cui siamo molto affezionati, quindi ti direi no, siamo partiti proprio da una scelta di quattro bei film, abbiamo avuto la fortuna poi di avere la disponibilità da parte dei registi che ci accompagneranno in questa rassegna. La proiezione e dopo l'incontro con i registi, com'è strutturato? Molto semplicemente ci si collega al sito di MyMovies e alla sezione dedicata di Schermi in Classe, che è su mymovies.it/io resto a casa/sic. Ci sono tutti e quattro i film, ci si può registrare appunto tutti e quattro gratuitamente, aprendo solo un account su MyMovies. Alle 16 del giorno indicato parte la proiezione, e alla fine del film, diciamo, scompare l'immagine del film e appare l'immagine del regista collegato da casa, che risponderà alle domande che nella chat gli insegnanti, i ragazzi e in generale il pubblico avranno scritto, domande ma anche riflessioni. Il bello sarà proprio confrontarsi attorno a quello che abbiamo visto e forse anche al come lo stiamo vedendo in questa fase un po' particolare. Per tutte le informazioni ci lasci i riferimenti? Guarda, io vi proporrei di guardare direttamente il sito di Cinemover, che è www.cinemover.tv. Continueremo ad aggiornarlo con una serie di informazioni e di contenuti legati appunto a questa rassegna, ed eventualmente anche il canale Facebook di Cinemover, su cui pubblicheremo anche alcune interviste nei prossimi giorni un po' particolari legate sempre a questa iniziativa. Io resto a casa con Schermi in Classe, una rassegna promossa da Cinemovel, Libera e MyMovies. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Enzo Bevar. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, grazie mille, a presto. Con Claudia Maci del Festival dei Popoli per parlare dell'iniziativa Un documentario al giorno, dai profili social del Festival, gratis su piattaforme libere. Claudia, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per avermi invitato a parlare in trasmissione. Ci presenti quest'idea? Sì, assolutamente. È un'idea che è nata in una circostanza particolare come quella che stiamo vivendo adesso, un'emergenza in cui probabilmente si sentiva anche il bisogno di dare ognuno di noi un contributo nel proprio piccolo. Il Festival dei Popoli è da oltre 60 anni una finestra sul mondo, e un po' attraverso il cinema documentario negli anni abbiamo sempre creato un luogo di riflessione, di evasione, condivisione, e oggi più che mai, in una circostanza in cui siamo chiamati come cittadini a stare in casa e non uscire, in cui siamo costretti a stare lontani, no? Dai propri amici, dai propri cari, ma anche dai luoghi di cultura e di aggregazione, come ad esempio il cinema. In un momento come questo abbiamo sentito più che mai il bisogno di una dimensione collettiva, di sentirci uniti nella distanza, e con un documentario al giorno, con un chiamato anche utilizzando anche l'hashtag I Popoli Restano a Casa, nasce questa iniziativa, nasce proprio dal bisogno e dalla capacità della cultura di assolvere un po' questa funzione. Il cinema in generale e il documentario in particolare hanno sempre ricoperto un ruolo

oggi a Perugia in sala è complicata come in qualsiasi altro centro di provincia, che ha subito il impoverimento, che ha subito la depauperazione dei servizi minimi di e questa è la situazione a cui ci siamo affrontati. E ti devo dire, siamo una cellula di resistenza, insomma, tutto questo, e dei risultati li otteniamo in realtà, quindi non ti dico questo in senso assolutamente positivo negativo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per distanza? Allora, chiaramente noi abbiamo un Facebook e un Instagram, sono facebook.com/postmodernissimo, e ci trovate su Instagram come postmodernig, dove abbiamo anche il catalogo di distanza, ma la cosa più semplice è che andate su postmodernissimo.com/distanza, scritto così com'è. Distanza, documentari e cortometraggi in libera circolazione sul web, un saluto e un ringraziamento ad Andrea Frenguelli del Postmodernissimo di Perugia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie, ciao ciao. Con Pedro Almocida della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, per parlare dello streaming gratuito della sezione corti dell'ultima edizione. Pedro, ben trovato. Ciao a tutti e buonasera. Anche con te per parlare della fruizione culturale in tempi di contagio, questa è un'iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio. Sì, esattamente. Diciamo anche noi abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa che a me è piaciuta molto perché è nata spontaneamente, no? Io resto a casa è un hashtag, ma già dall'8 marzo mi pare che è iniziato e poi le istituzioni, quindi il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, poi il Governo, il Ministero della Salute e via discorrendo lo hanno adottato e promosso, però appunto nasceva spontaneamente per questa esigenza anche di condividere, ora che siamo un po' tutti attaccati a un computer, a uno schermo in rete, condividere anche la cultura e ognuno per diciamo gli ambiti in cui opera, quindi noi come Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, quindi un festival e con i film, con una proposta di film. La cosa che è venuta in mente a me, ma perché è anche la più semplice, poi magari ne parliamo un secondo, è quella di condividere i film, i cortometraggi che noi proponiamo ogni anno, grazie a Pierpaolo Freda che cura questa sezione che si chiama Corti in Mostra Animatori Italiani Oggi. Ogni anno scegliamo 10-15 titoli di cortometraggi e chiamiamoli d'autore, perché è un'animazione un pochino non quella mainstream commerciale delle TV, ma è quella di realtà di animatori che artisti veri e propri, che purtroppo magari alcuni non possono fare solo quello di mestiere, fanno altri mestieri e intanto si divertono in qualche modo e si esprimono la propria poetica attraverso il cinema di animazione. Allora, i titoli da quanto vedo sono 7 al momento. Sì, adesso naturalmente abbiamo ovviamente chiesto l'autorizzazione agli autori di poter pubblicare, quindi di poter usufruire in streaming gratuitamente dei loro lavori. Questi diciamo sono i primi che ci hanno risposto subito, ma poi penso che saranno un po' tutti quanti che risponderanno positivamente, però già diciamo è una selezione interessante e anche che può far capire in qualche modo qual è la linea di lavoro di selezione del festival in questo ambito. E ricordo che comunque è una mostra di titoli, non è un concorso, quindi sono titoli già presentati da altre parti, e la cosa è positiva in questo senso perché il fatto anche nei festival legati anche ai festival di cortometraggi, soprattutto alla Mostra del Nuovo Cinema, se ne occupa in maniera appunto minoritaria nei cortometraggi, invece i festival di cortometraggi naturalmente tendono ad avere, no, i film in anteprima e quindi a volte poi questi cortometraggi non circolano tanto, quindi la nostra sezione vuole essere appunto una sezione di promozione di questo tipo di cinema, e quando adesso abbiamo pensato che cosa potevamo condividere in maniera anche un po' veloce, ho pensato che questi lavori che per ragioni distributive che sappiamo sappiamo bene, nel senso che il cortometraggio è già un formato di difficile distribuzione nelle sale, nelle TV, ecco, quelli di animazione forse sono ancora un tassello, diciamo, con l'animazione in qualche modo, non dico sperimentale, ma più d'autore, ha ancora più difficoltà di pubblicazione, rimanendo quelli invisibili. In questo momento speriamo che il nostro apporto possa in qualche modo far conoscere anche degli autori, alcuni poco conosciuti, altri già molto affermati, però tutti di grande livello qualitativo. Tra l'altro il formato cortometraggio mi sembra adatto alle piattaforme social. Oramai sì, anche se io a volte, seguendo molte cose, rimango sorpreso da YouTube, da video che durano ore, di persone che parlano, raccontano, fanno, quindi non è neanche vero, no, che il formato web deve essere per forza corto, però in questo caso lo è di statuto corto, perché i lavori che vorrete vedere, anche che durano dai 3 minuti, magari 10 minuti, hanno un lavoro dietro pazzesco, perché sono praticamente tutti quasi fatti a mano, quindi hanno bisogno di migliaia di disegni per fare quei minutaggi, quindi naturalmente è anche per questo che in Italia si producono pochi film di lungometraggio di animazione vera, perché il lavoro che c'è dietro dura anni. Ci dai in chiusura tutti i riferimenti web? Ma io direi di puntare, diciamo, direttamente al sito del festival, che è www.pesarofilmfest.it, in cui c'è la notizia e il link, oppure il canale di YouTube Pesaro Film Festival, in cui ci sta la playlist dedicata a questi corti, o su Facebook naturalmente anche lì Pesaro Film Fest, Twitter o quant'altro. Selezione che andrà ad aumentare chiaramente, da quanto dicevi. Sono tipo una quindicina, quindi sì, aumenteranno adesso che abbiamo le altre risposte via via, e quindi si implementeranno giorno per giorno. La sezione corti in streaming gratuito per quanto riguarda la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro, l'ultima edizione dello scorso anno. Un saluto e ringraziamento al direttore Pedro Armocida. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buona visione. Con Letizia Cortini, una delle curatrici del progetto di didattica online dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Letizia, ben trovata. Buonasera a tutti, a te Federico e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ci presenti questa iniziativa? Sì, dunque, in questo periodo di forzata emergenza a casa e quindi di teledidattica, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è una fondazione culturale che ha un patrimonio di cinema, soprattutto documentario, che va dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri, con particolare, diciamo così, importanza soprattutto per il periodo che va dagli anni 60 agli anni 80 del Novecento. Si tratta di film di militanza, di inchiesta, che riguardano il mondo del lavoro, che riguardano la società contemporanea dell'epoca, ovviamente la storia quindi contemporanea, ma anche la storia sociale, la storia economica del nostro paese, la storia del costume, la storia urbanistica, anche dei cambiamenti dal punto di vista della modernizzazione, dell'emigrazione nelle città, la storia dei movimenti collettivi, delle battaglie per i diritti dal punto di vista sociale, civile, politico, del lavoro, sindacale, eccetera. Quindi un patrimonio unico che tutto sommato è ancora molto poco o non abbastanza conosciuto, se non dagli addetti soprattutto del settore. E stiamo cercando da anni come fondazione culturale di renderlo sempre più diffuso e fruibile nel mondo della scuola, perché come fonti quelle audiovisive, cinematografiche, stanno sempre più

Per ora hanno chiesto aiuto per due affitti, quindi quello di marzo e di aprile, ma probabilmente ci sarà anche maggio. E stanno rispondendo, ma cose veramente emozionanti, persone che hanno cambiato città, hanno cambiato paese, che comunque ci ringraziano e ci vogliono aiutare. È stupenda questa cosa, devo dirti che è veramente emozionante. Poi il fatto che sia comunità, cioè il The Tour non è un cinema, il The Tour è proprio una comunità ed è quello a cui teniamo, è una comunità di esseri umani speciali, veramente è pieno di belle persone e quindi questa è la sua forza, perché di cinema ce ne sono tanti, ma di cinema, di posti dove puoi stare a tuo agio come sei, senza dover indossare maschere o portare il biglietto da visita, no, vieni tutti molto serenamente, e questa serenità si vede anche ora che ce la stanno ridando, quindi io ringrazio tutti e tutte per questo grande aiuto. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti? Certo, allora, pagina Facebook è Cine The Tour, c'è un pallocco rosso con la scritta The Tour in bianco, poi il sito è www.cinedetour.it per il crowdfunding e si può leggere il tutto sul sito e c'è proprio una paginona tipo help, sia in italiano che in inglese, perché abbiamo anche tantissime persone che ci seguono straniere. Basta veramente a volte una goccia, che ovviamente ognuno quello che può, tanto siamo tantissimi, quindi anche una goccia, insomma, è bellissimo anche perché ci dà coraggio, ecco. Cristina Misticò del Cine The Tour per lo streaming d'autore gratuito e la campagna Salva The Tour. Cristina, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A te, come sempre, grande amico del The Tour. Ti abbracciamo fortissimo, un giorno ci abbracceremo. A presto. Alla prossima. Ti tenete duro, stay home. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.